Buonasera, buonasera, benvenuti di nuovo alla nostra trasmissione. Nel tempo si parla per esempio di Radio Chaos, non so neanche se la mia voce si sta sentendo, è molto bassa. È Claudia Maiti Mau dalle frequenze appunto di Radio Chaos. Siamo qui per la puntata tradizionale di fine anno, ovvero prendendo spunto dalla classifica delle 100 migliori tracce di Pitchfork relative, si badi bene, all'impatto commerciale, culturale, politico, musicale che questi pezzi hanno avuto sul mercato americano. Viene stirata ogni anno questa classifica insieme a molte altre, chiaramente la più attesa è sempre quella degli album, ma noi ogni anno appunto prendiamo spunto per vedere quali sono i pezzi che sono piaciuti anche a noi e soprattutto per scoprire anche nuova musica. Quindi partiamo dalla posizione più alta, chiaramente dal fondo della classifica. Il primo pezzo che decidiamo di ascoltare sono gli Unknown Mortal Orchestra con Can't Keep Checking My Phone, tratto da Multi Love. Siamo passati a DJ Cose. I brani durano molto poco perché dobbiamo ottimizzare il tempo a nostra disposizione. Siamo passati al praticamente l'unico pezzo elettronico insieme a quello di Nicolas Jaar, ovvero stiamo parlando di DJ Cose, che si piazza anche lui nelle ultimissime posizioni di questa classifica con il suo pezzo pezzone Ecstasy. But I don't have the experiences people report from the drug ecstasy. Is the drug like the lie and meditation the truth? Or am I missing something that could really help me? E ho detto che appunto avremmo fatto molto molto in fretta a scorrere questa classifica. Come dicevo, questa Pitchfork ci dà sempre la possibilità anche di scoprire musica che magari normalmente noi non ascolteremmo, come questa Kamaya con con How Does It Feel, che l'abbiamo unita ad un altro pezzo che si sentirà tra poco. La giovane Camaglia che si chiede come ci si sente a essere ricchi. Ho lavorato tutta la vita, non ho mai avuto una lira, sono sempre stata al verde. Come ci si sente ad essere ricchi? E l'abbiamo attaccata perché comunque erano due posizioni tra i pezzi che abbiamo deciso di ascoltare, che erano vicine. Camaglia 91, Shamir, suo album di debutto Ratchet, che contiene questa Demon, mentre l'anno scorso nella classifica 2014 abbiamo sentito la rivelazione, il debutto di Shamir, che ora adesso non mi ricordo come si chiamava. On the Regular, ovviamente, si chiamava il debutto di Shamir, e questo qui invece, diciamo, una ballata un po' più dolce amara contenuta in Ratchet, che troviamo anche al 48esimo posto, mi sembra, come album dell'anno. E invece DJ Kicks di DJ Kose, strano che un DJ Kicks venga considerato uno dei migliori album dell'anno, ma Pitchfork lo fa. Abbiamo cambiato sonorità. Il primo singolo, il primo pezzo del attesissimo secondo album delle Savages, Adore Life, che uscirà a gennaio, questo è The Answer. Sfumato come tutte le canzoni per farcene stare il più possibile, abbiamo dovuto fare delle rinunce molto molto dolorose. Stiamo salendo, però siamo ancora nelle altissime posizioni, e un pezzo a noi molto molto caro di un album molto bello, Escape from Evil, che invece ha ricevuto solo una honorable mention da Pitchfork, non è neanche tra i 50 migliori album dell'anno, con Grande Scandalo di Olivia. Questa è la bellissima To Die in LA. Per problemi di tempo sono state il 98 Proto Martyr con Doc Cloud, e poi il 97 Frankie Cosmos con Young. E adesso ci stiamo ascoltando Lower Dance dopo l'1-2 86-85, appunto Savages Lower Dance. Angelino, ovvero Moses Sumney. Già avevamo ascoltato questo bellissimo pezzo Seeds quando è uscito fuori, quando Pitchfork ne fece l'articolo come nuova traccia, nuova canzone. E questo pezzo che è stato prodotto, mixato dal capo dell'etichetta per cui incide Moses Sumney, un'etichetta che noi abbiamo nominato spesso, la Terrible Records, perché è la stessa di Empress Off, e il boss è il co-boss, è Chris Taylor di Grizzly Bear, e si sente un po' allo stile. How can I reconcile the sea? Ooh. dicevo, ci fa sempre molto piacere suonare musica nuova, conoscere musica nuova, per cui dovendo condensare 90 minuti, 100 pezzi, ovviamente metà già non ci appartengono, diciamo, non ci piacciono, altri ci appartengono poco, però ci interessano, ci incuriosiscono musicalmente o per contenuti, e una legge di Mighty FM è: si cerca di non mettere mai pezzi già passati in trasmissione, ed è per questo che per esempio qui arriva il primo, non mettiamo Ching di Chairlift perché l'abbiamo sentito poco tempo fa, e invece lei l'abbiamo trascurata, sarebbe stato ideale però forse un po' troppo uguale alla nostra amata Julia Holter. Lei invece è la scandinava Jenny Hall, tratto da Apocalypse Girl. Questa è The Battle Is Over. Disco Apocalypse Girl della norvegese Jenny Kvall, che è anche al 42esimo posto come miglior album per Pitchfork, che dovremo quindi ascoltare con attenzione. Forse fa riferimento allo stato del welfare, anche famoso in Scandinavia. Questa è Jenny Kvall, ma nella classifica di Pitchfork sempre più, cioè lo sappiamo da anni che alla fine il miglior album dell'anno sarà sempre di un artista nero hip hop rap. Come dico sempre, l'impatto, l'importanza, la rilevanza della musica hip hop e rap noi non la possiamo comprendere, soprattutto perché o capisci quello che dicono, ma questo vale anche per qualsiasi tipo di musica, oppure inutile che ne parliamo, ma mai come quest'anno penso che ci sia un bel 45% di pezzi che appartengono a questa scena. Alcune cose le condividiamo, ci piacciono musicalmente, ci piace come contenuto, soprattutto per la tragedia che sta andando avanti ogni giorno, insomma lo sappiamo, il rapporto tra la comunità nera e la polizia non è delle migliori, però ecco, mi trovo un po' perplessa, anche se ripeto, questa classifica contiene anche pezzi che hanno avuto impatto commerciale, come cultura pop eccetera, come Pitchfork, insomma avalli ancora pezzi in cui sono degli artisti hip hop che parlano solo di quanti soldi fanno, di quanti orologi hanno, di quante macchine hanno, di quanta figa hanno. E parlando di Lana Del Rey, siamo arrivati a Lana Del Rey, che abbiamo voluto unire forse con uno scandalo di chi ci ascolta, all'artista che la segue immediatamente sopra nella classifica, non immediatamente ma nella nostra selezione, risultano vicine, ed è Ed è Bjork con una bellissima Lion Song tratta da Vulnicura, il breakup album dolorosissimo in cui Bjork si è messa a nudo dopo la fine della sua relazione molto lunga con l'artista Matthew Barney. In realtà avevamo fatto un salto logico, è difficile seguire un po' un filo con questa classifica. Come dicevo, grande presenza di pezzi rap e hip hop, pezzi che conosciamo molto bene, che amiamo, che non abbiamo sentito. C'era il 77 Downtown di Magical Clouds, al 76 Standard di Empress Off, poi al 75 Lana Del Rey, poi altri pezzi pop e non come Hudson Mohawky Riders, e poi siamo arrivati nostro caro Josh Tillman, The Night Josh Tillman Came to Our Apartment, 71 in classifica, fa da John Misty uno dei migliori concerti dell'anno, tratto da I Love You Honey Bear. Of the few main things I hate about her, one's her petty vogue ideas. Someone's been told too many times they're beyond their years. By every half-wit of distinction she keeps around. Now every insufferable convo features her patiently explaining the cosmos of which she is in the middle. E questa che sembra una tenera canzone d'amore invece è una canzone, diciamo, sputtanamento di un incontro con una ragazza che non gli è rimasta molto molto simpatica, mentre il video raffigura, descrive invece un incontro di Josh Tillman, padre John Misty, con se stesso, anche con bel bacio in bocca. Arriviamo ad un artista che amiamo tantissimo, che ha due pezzi in questa classifica, per cui partendo da quello in posizione più alta, ovvero 4th of July al 69esimo posto, che sarà poi seguito da I Should Have Known Better all'11esimo posto, e Sufjan Stevens dal bellissimo, straziante, struggente Carrie Ann Lowell, album che io non ho ascoltato, adesso capisco perché, è stato inconsciamente per proteggermi. Sesto posto come album, come padre John Misty, 12esimo. Come dicevo, Carrie Lowell, il disco struggente, parla della mamma, del suo rapporto con sua mamma e suo patrigno, con cui comunque Sufjan ha ottimi rapporti perché lavora per la sua etichetta, la Smati Kitty. Il disco sulla morte, sul dolore, su questo pezzo in particolare, sul rimpianto e poi sul cercare di liberarsi dal rimpianto. Perché il passato è il passato, e alcune persone non ci sono più, però c'è anche nuova vita. Quando Sufjan dice: mio fratello ha una figlia, la bellezza che lei porta, l'illuminazione. Avanti nella classifica delle 100 migliori tracce o canzoni, tant'è vero che il grafico chissà è stato sgridato. Prima hanno fatto un'immagine con Songs, infatti anche io ho notato, per gli altri anni era sempre Tracks e poi è ritornato Tracks, ma siamo tornati a una canzone anche questa qui. L'ascoltavo poi tempo fa per strada, anzi proprio il giorno del loro concerto. E che contrasto, Living My Life di Hunter, il concerto del 13 novembre, mentre noi vedevamo di Hunter al Bronson a Parigi, altre persone vedevano un altro concerto. Living My Life di Hunter, tratto da Fading Frontier, 30° posto, miglior album. Questa canzone è stata fatta proprio molto più veloce, molto jingle jangle, la chitarra sembrava molto spesa, e questo un po' mi è dispiaciuto perché ha perso insomma questo alone così nostalgico, così evocativo. My Way, adesso che è stato appena celebrato il centenario della nascita di Frank Sinatra, siamo arrivati alla posizione 63, album relativi in classifica non ce ne sono, perché era uno degli album più attesi del 2015, invece non è ancora uscito. Si doveva chiamare, si chiamerà forse Dear Tommy, credo. Questo pezzo è Shadow, che ne farà parte, e sono Chromatics. Invece, parlando di cose che ci piacciono, al 39 c'è la cara Holly Herndon, al 38 Arca, 37 Mi, la nostra cara, carina Lorelei Empress Off. Questo invece è un album su cui avevo pensato di fare una trasmissione, e invece poi è troppo old, cioè è troppo un po' lontano dalle mie corde. Però questo pezzo è figo. Vega International Night School. Insomma, diciamo una versione moderna della Isla Bonita, potremmo dire. E questo qui è uno dei pezzi che dicevo prima, che sono stati prodotti dalla comunità artistica americana sull'onda della rabbia per le continue morti di giovani neri per mano di poliziotti bianchi. Uno dei pezzi che abbiamo saltato, perché l'abbiamo già fatto sentire nella trasmissione dedicata a Empress Off, era appunto Blood Orange, che parlava di Sandra Smile, una delle donne suicidata, mi sembra, in prigione dopo che era stata arrestata per una violazione stradale. E questo pezzo Janelle Monáe, insieme a tutti gli artisti della sua etichetta Wonderland Records, ha fatto questo pezzo L.U. Time About, dove gridano con rabbia i nomi di tante di queste vittime: Walter Scott, Jeremy Reed, Philip White, Eric Garner, Trayvon Martin, uno dei più famosi purtroppo, Freddie Gray, Michael Brown, Amadou Diallo e appunto Sandra Bland. Messere, di suo nome, di suo nome, perché non dice il suo nome? Beh, dicendo il suo nome appunto si riconosce la gravità della cosa. Sean Bell, say his name. Sean Bell, say his name. Sean Bell, won't you say his name? Say his name, say his name. Say his name, say his name. Say his name, say his name. Say his name, won't you say his name? Quest'anno, come ho già detto, sono stati informati da questa guerra che va avanti, di cui appunto si sente parlare quasi ogni giorno. È uno dei pezzi più belli che è arrivato alla fine dell'anno, ma che noi abbiamo avuto la fortuna di ascoltare dal vivo nel bellissimo concerto con orchestra di 40 elementi che ha fatto Anthony the Johnsons, che non esiste più, si è reinventata lei, che vuole essere chiamata, che si sente onorata quando viene chiamata con il pronome femminile, al femminile, come fanno i suoi amici più stretti, la sua famiglia. E la sua nuova identità è Anoni, l'avevamo già accennato appunto parlando del Primavera Porto, che non c'erano nuovi pezzi da far ascoltare, ma sapevamo che stava lavorando ad un nuovo album con sonorità più elettroniche, con l'aiuto di Danilo Patin, One Trick Point Never, di Azzo Mohawki. E il primo pezzo che viene fuori è questo Four Degrees, proprio durante la conferenza sul clima che si è tenuta a Parigi, dove si dice sono 4 gradi, sono solo 4 gradi, quando questo aumento di 4 gradi nella temperatura del pianeta porterà all'estinzione di decine e decine di specie animali. E Anoni sfoga tutta la sua rabbia, quasi voler desiderare tipo una distruzione totale, visto che l'uomo non si merita la creazione e non riesce a fare quello che può per proteggerla. Fish don't belly up in the sea. All those lemurs and all those tiny creatures. I wanna see them burn. It's only for the breeze. Nel suo cambio di identità, perché nel suo nome maschile tra virgolette, Anthony, l'H che normalmente sarebbe in questo nome, non c'era, quindi vabbè, forse sto facendo un po' troppi ragionamenti. Sempre purtroppo, mamma, che FM fa insomma sempre uno showcase, i pezzi per far conoscere, per condividere, per incuriosire, poi ovviamente se non c'è questa condizione potrà sentirsi questo pezzo interamente senza la mia voce sopra. E siamo alla 53esima posizione, eravamo prima, c'erano in mezzo pezzi che abbiamo sacrificato per motivi di spazio, uno perché l'avevamo già sentiti come Fight Nymphs 4 di Nicolas Jaar, altri perché non c'è stato spazio come Dream Love Lover di Destroyer. E a questa metà classifica c'è una concentrazione di pezzi invece di seguito ascoltiamo più o meno tutti. In mezzo c'era In Time di FKA Twigs, anche questo già ascoltato in trasmissione. Questa è l'opus di David Bowie del prossimo album, lo stesso titolo, più che altro più che un titolo è un segno, ovvero una stella nera, Black Star, 10 minuti e passa condensati in 3 minuti e qualcosa per l'album che uscirà il giorno del suo compleanno, l'8 gennaio 2016, una delle prime date che ho memorizzato e che mi segnavo sul calendario, il compleanno di David Robert Jones. Questo è David Bowie che non può prescindere dal video, inquietantissimo. E niente, l'8 gennaio del 2016 compirà 69 anni. Sotto la metà della classifica ci sono tantissimi pezzi che ci piacciono, tutti raggruppati, tutti diversi, molto diversi tra loro, perché è completamente diverso ma assolutamente ipnotico. Vorresti che non finisse mai, ma durerà poco purtroppo. Pezzo di apertura di Believe I'm Going Down, Pretty Pimpin' di Kurt Vile. Oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Thank you. filetto dedicato all'album, 23esima posizione per Pitchfork come album Believe I'm Going Down. La voce di Kurt Vile viene definita un misto tra Leonard Cohen, Joey Ramone, Bob Dylan e Black Francis. That's just me, then I'm proceeding to the night comb some stranger's hair, never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown locked in the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Qui Carvajal prima si insulta, poi però si fa i complimenti. E passiamo ad un album, un pezzo di un album, vero Sparks, contenuto in Depression Cherry dei Beach House, che hanno fatto la sorpresa di far uscire un album, un altro album, subito dopo Thank You My Like a Star, che però stranamente, questo mi ha sorpreso, visto le lodi sperticate fatte dallo stesso Pitchfork anche per singoli pezzi come Elegy to the Void, non risulta né come album, che invece Depression Cherry al 28esimo posto, né con nessuna canzone, e questa però è Spam. Secondo Thank You My Like a Star ci sia una presenza più incisiva della chitarra di Alex Kelly. Tra la cinquantina e la quarantina ci sono molti pezzi che ci sono piaciuti e che, come dicevo, non potrebbero essere più diversi tra loro. Take my Hallucinogen EP, 31esimo posto, anche se degli album, anche se è un EP. Diciamo che la versione un po' più pop di FKA Twigs, che abbiamo potuto vedere anche lo Spring Attitude lo scorso maggio. Seguito Anoni, FKA Twigs, perché già sentita David Bowie, Scar Vile, Beach House, Kelela. E subito sopra Kelela c'è un grande ritorno della scena rap hip hop statunitense, ovvero Dr. Dre. E appunto che questo pezzo l'abbiamo inserito perché non ci dispiace musicalmente, ma anche per la portata politica. Si chiama, cioè una roba leggerina, Genocide, sempre facendo riferimento alla questione tra i neri, i giovani neri e la polizia americana. Kendrick Lamar, Marsha Ambrosius, Candice Pillay, contenuto in Compton, grande ritorno di Dr. Dre. Questa è la nostra città, negro, non ci provocare, che se no ti seppelliamo. E siamo arrivati a One of Tricks Point Never, Daniello Patin, grande ritorno quest'anno con un album, Garden of Delete, gioco di parole con Garden of Delights, 11esimo posto, l'abbiamo vista anche a Torino a Club to Club. Questo è un capolavoro, soprattutto a livello video, sticky drama, in cui One of Tricks Point Never si circonda di un casino di gente che ha fatto un lavoro incredibile. Andatevi a vedere assolutamente il video, un universo parallelo popolato da teenager e extraterrestri e creature stranissime e battaglie appunto a metà tra il medievale e l'ultra futuro, assolutamente incredibile. Sticky drama. creato un vero e proprio universo, una cosmologia, ha inventato una band fittizia che si chiama Chaos Edge, ha inventato un alieno troll che si chiama Ezra, veramente visionario. A questo punto della classifica ci sarebbe stato anche un altro artista che avremmo potuto ascoltare, Joanna Newsom, Living the City, un pezzo che eravamo tentate anche di mettere invece di Sapokani Khan nella trasmissione dedicata a Julia Holter. Abbiamo dovuto saltare, ma ecco che arriva Courtney Barnett, uno dei due pezzi contenuti in questa classifica, ovvero Pedestrian at Best, e poi però c'è anche in posizione molto più alta al nono posto The Preston. Tell me I'm exceptional. Trying to drain me of my energy. They're trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got girls in real life trying to fuck up my day. Fuck going online, that ain't part of my day. I got real shit popping with my family too. I got niggas that can never leave Canada too. I got two mortgages, 30 million in total. I got niggas that are still trying fucking me over. I got rap niggas that I gotta act like I like. But my acting days are over, fuck them niggas for life. Yeah. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got people talking down, man, like I give a fuck. I bought this one a purse, I bought this one a truck. I bought this one a house, I bought this one a mall. I keep buying shit, just make sure you keep track of it all. I got bitches asking me about the code for the Wi-Fi, so they could talk about the timeline and show me pictures of their friends, just to tell me they ain't really friends. Ex-girl, she the female version of me. I got strippers in my life, but they virgins to me. I hear everybody talking about what they gon' be. I got high hopes for you niggas, we gon' see. I got money in the courts till all my niggas are free. About to call your ass a Uber, I got somewhere to be. I hear fairy tales about how they gon' run up on me. Well, run up when you see me, yeah, we gon' see. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. If you're calling to say these and don't really fit into any of those descriptions, text me, because I'm really on the answer voicemail. You used to call me on my cell, you love the device, at night. You used to call me on my cell, you love the device, at night. I know when that highlight bling, that could only mean one thing. The city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Boy, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started getting dressed and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some dudes I never seen before. Lurking, don't die tonight. I just wanna dance with you, baby. Just don't move too fast, I'm too crazy. Man, down the avenue, get shaded. Take a nigga mind off that. We can dip, fuck in the whip, slide right back in the function. One wrong word, start busting. Put that on my Yankee hat. I'm a gangster crip, fuck gangster rap. Where the ladies at? Where the hoes? Where the bitches? Every real nigga know the difference. Bandana brown like a dope daddy shooting in the kitchen room. Northside nigga never went to pilot. What's a nigga Brio? Cocaine color of a Creole. T-scrap moving for the D-Lo, we know. I ain't never ran from nothing but the police. I ain't never ran from nothing but the police. I ain't never ran from nothing but the police. From the city where the skinny carry strong heat. Northside Long Beach. Northside Long Beach. Hit the counter, make a dollar flipping. Split the dollars with my mama children. Folks need Porsches, hoes need abortions. I just need your light of my business. Never no problem playing no bitches. Never no problem spraying no witnesses. No face, no case, being with the shit. Hopped out broad day, didn't empty clips. Cut glass cause it wasn't about cash. School wasn't no fun, couldn't bring my gun. No change gon' come like Obama say. But they shooting every day around my mom and them way. So we put an AK with Keanu and them stay. And that's for any nigga say he got a problem with me. How I'm crippin', why I'm living, come and follow me. Pistol poppin' Poppy Street. I ain't never ran from nothing but the police. I ain't never ran from nothing but the police. I ain't never ran from nothing but the police. From the city where the skinny kept strong heat. Northside Long Beach. Northside Long Beach. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top.